Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Buonasera, buonasera a tutti. Questa era la sigla di stasera di Tonight Alive con John Martin e il suo Daisy Blues Medley, perché appunto è proprio dedicata a lui questo sabato sera su Tonight Alive, questa torrida serata nella Piana Fiorentina. E mi è venuto in mente che magari per quest'estate, visto anche che non è molto conosciuto, John Martin, poteva valere la pena di approfondire la sua carriera assieme a voi. Però, come sempre, all'inizio della puntata, prima di perdermi dentro tutto il percorso di vita e di arte di John Martin, vi voglio ricordare come sempre i nostri contatti, i nostri i nostri indirizzi per mettervi in contatto con noi, che ovviamente è, il primo è il sito wombat.noblogs.org. Subito in seconda posizione, subito a ruota, c'è la nostra mail, che è postawombat@insiberia.net, e poi i nostri canali social per essere sempre informati su tutto quello che sta accadendo, sia in Wombat sia intorno al Wombat, che sono su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze. E torniamo a noi e torniamo a John Martin, che in realtà era nato con il nome di Ian David McGeechee l'11 settembre del 1948 a New Malden, nel Surrey, vicino, possiamo dire nell'estrema periferia londinese, via, passatemi questa estrema periferia, perché effettivamente è abbastanza lontano da Londra, ma Londra, essendo una città parecchio grande, rimane, alla fine è stato inglobato nell'area metropolitana londinese, ed era il figlio di una famiglia, diciamo, già artisticamente attiva, perché i suoi genitori, sua madre era inglese e suo padre scozzese, i suoi genitori erano entrambi cantanti di operetta, però i suoi genitori si separarono quando John era ancora molto piccolo, e intorno ai 5 anni, e fu mandato in Scozia, a Glasgow, dalla nonna paterna, e lì in Scozia John iniziò a suonare la chitarra intorno ai 15 anni e frequentava la Shadowlands Academy a Glasgow. Da ragazzo era anche un discreto giocatore di rugby. Quando poi lasciò appunto la high school, tentò appunto ci entrò proprio all'Art College di Glasgow, ma lo lasciò abbastanza presto per seguire le sue ispirazioni musicali, giustamente direi anche. E iniziò quasi praticamente subito a suonare in giro nei club folk di Glasgow, sotto l'ala protettiva di Hamish Imlach, che tra l'altro lo incoraggiò molto nell'esercitarsi con la chitarra e nel canto. Hamish Imlach magari è un nome sicuramente sconosciuto ai più, però diciamo è un mentore, sicuramente uno dei mentori della scena folk scozzese e nord inglese, un sacco. Oltre a John Martin, sono stati i suoi allievi Binny Connolly, anche Christy Moore, e aveva nei primissimi 60 una solida reputazione da folk singer nel nord dell'Europa. Appunto, sotto l'ala protettiva di Hamish Imlach, John Martin iniziò appunto a farsi le ossa nel giro dei club dei dintorni di Glasgow, e praticamente quando appunto stava andando, frequentando l'Art College di Glasgow, conobbe quelli che all'inizio furono i suoi due grandi amici, e tra cui anche David Graham. Oltre a essere amico, fu anche il suo primo esempio a cui ispirarsi musicalmente, perché infatti sia David Graham che Clive Palmer, che appunto condividevano con lui l'appartamento a Elston, saranno poi tra i fondatori dell'Incredible String Band abbastanza conosciuta nel giro folk jazz abbastanza conosciuta, perché è abbastanza importante soprattutto nella scena folk jazz inglese e non. E comunque la reputazione di John Martin crebbe sempre di più, appunto facendosi le ossa nel giro dei club del nord dell'Inghilterra e della Scozia, e da un certo punto prese la decisione di ritornare verso Londra a cercare maggior fortuna, e iniziò a suonare nei locali folk abbastanza famosi come il Le Cusin o il Kingston Folk Barge, appunto lì a Londra. E appunto questo ritorno a Londra gli porterà fortuna, perché Chris Blackwell, il presidente della Island Records, frequentava e girava appunto in quei dintorni, lo scoprì e gli fece pubblicare il suo primo album, London Conversation, da cui ci andremo a sentire subito l'omonima traccia. John Martin, Tonight Alive, Radio Wombat. In a foreign city once again, you wavered weakly in the night. The early sun of London morning burned the darkness with unanswered light. But morning found you crying, waiting for a woman where she left you in an empty state of mind, waiting not for her but for relief from passing time. And a young friend talking softly as the mist keep tumbling down. But the woman waiting for him near stayed and told you of the peace that could be found. And a fallen heart was woken in your tired waiting time, and you thought you might begin again from all the ashes of your mind. And though he used no poetry, world to weaving songs, and the peace they were recalling were good roads that you might have walked along. And the skies you saw were all the same, although his words were not your own. E questo appunto era London Conversation dell'omonimo esordio di John Martin nel 1967. La maggior parte dei brani era scritta da John Martin, ma c'erano anche diverse cover in questo album, e sicuramente è l'album più folk, l'album in omaggio alle radici folk di John Martin. Infatti poi gli altri si sposteranno sempre più su versanti blues jazz. Questo è sicuramente l'album che paga tributo appunto alle radici folk di John Martin, soprattutto Bob Dylan e Donovan, direi. Tra l'altro si dice che per la registrazione di questo album veramente come si può dire low budget, perché per tutta la produzione e tutto si dice appunto che costò solo 158 sterline la registrazione dell'album, e appunto c'erano delle cover tipo la famosa Sandy Gray di Robin Frederick, oppure una cover di Bob Dylan, dedicata una cover al maestro con Don't Think Twice, It's Alright, ma anche diversi discreti brani autografi come Fairy Tale Lullaby, la London Conversation appena ascoltata, Who's Grow Up Now, insomma un album folk classico ma notevole. E c'era anche quest'altra che non è una cover, è una reinterpretazione di un brano tradizionale, e è Cocaine, che non è la famosa Cocaine di J.J. Cale, che poi è stata anche registrata e resa famosa da Eric Clapton, ma è una Cocaine derivata da Cocaine Blues, che è un western swing di T.J. Red Arnall, che poi era stata anche rielaborata sotto il nome di Little Sadie, e poi la versione appunto questa registrata è divenuta un traditional nel jazz, si direbbe standard, e appunto ricantata e reinterpretata da non si sa quanti cantanti blues, folk e country. Basti la prima che mi viene in mente, la più famosa reinterpretazione, è forse quella di Johnny Cash, ma poi subito a ruota dietro quelle di Hank Williams, di Woody Guthrie, di Merle Haggard, e ovviamente anche Keith Richards non si è mancata, non si è fatto mancare l'occasione di reinterpretare questo standard. E adesso sentiamocela nella versione di John Martin in questo suo esordio, London Conversation del 1967, sempre dello stesso album del brano precedente, sempre qui su Tonight Alive. A story about Cocaine Lil. She had a cocaine house on Cocaine Hill. She had a cocaine dog and a cocaine cat. She even had a cocaine rat, and it's all around my brain. Been walking around 10th Street and Main. I've been looking for a girlie to give me cocaine. Cocaine sure running round my brain. Been strolling round 10th Street and Main, been looking for someone to give me cocaine. Cocaine sure running round my brain. The cocaine, Lil, and Morphine Sue, they've been strolling down the avenue two by two. Says Lil to Sue, it's gonna do no harm. Both have a little old shot in the arm, and it's all round my veins, oh cocaine. Doctor tell me again and again, he say cocaine's for horses, ain't for men. Cocaine sure running round my brain. You know the doctor tell me again and again. He say cocaine kill you, son, he won't say when. Cocaine sure running round my brain. There's a story about Cocaine Lil. She had a cocaine house on Cocaine Hill. She had a cocaine dog and a cocaine cat. She even had a cocaine rat, and it's all around my brain. Yonder's baby, she's dressed in white. I said, hey, now, mama, gonna stay all night. cocaine sure running round my veins. Now there runs my baby, she's all dressed in black. You said you know it didn't mean it, won't you please come back? My cocaine sure running round my brain. Hey baby, please come quick. There's old cocaine to making me sick. My cocaine sure running round my brain. E questa appunto era Cocaine nella reinterpretazione di John Martin, brano scelto non a caso anche solo per farvi capire un attimo il soggetto. Infatti John Martin, diciamo, per usare un eufemismo, non si faceva mancare niente, giusto per capire subito in che ambito si va a parare e dare un attimo la quadratura del soggetto. E nel luglio del 1968 John Martin fece diverse apparizioni all'interno del programma della BBC Night Ride, e appunto da queste session poi nascerà di lì a poco l'album successivo, di pochi mesi tra l'altro, successivo a London Conversation, neanche un anno di distanza tra una e quell'altra, e il nuovo album si chiamerà The Tumbler nel dicembre del 1968. E in questo album, insieme appunto a John Martin, viene a dargli una mano anche il flautista jazz Harold McNair, che suonerà insieme a lui in brani come Dusty, Hello Train, Flying on Home, Seven Black Roses, e anche in The Easy Blues, che appunto è il singolo che abbiamo sentito, la canzone che abbiamo sentito come sigla di stasera, che anche se è contenuta in Solid Air, in realtà apparteneva alle sedute di registrazione appunto di questo The Tumbler, che The Tumbler appunto è prodotto dal produttore Al Stewart, che era lo stesso, anche se non sbaglio, di London Conversation. E sicuramente anche questo è sempre legato alla tradizione folk, ma in questo The Tumbler già le prime influenze jazz cominciano a farsi evidenti, con delle canzoni molto belle, anche se forse molto belle anche perché appunto questa semplicità di proprio classico folk tradizionale, specialmente nelle due canzoni d'amore come in The River e in Dusty, che sicuramente sono state ispirate dai momenti felici che il nostro stava vivendo a Hampton Court. E The Tumbler è sicuramente un album ambizioso, intriso di jazz, che aveva ben poco in comune con i modelli dei cantautori di quegli anni. Ad esempio Joni Mitchell probabilmente sarebbe arrivata a questa fusione di folk, blues e jazz soltanto anni dopo, appunto, a questo The Tumbler di John Martin, giusto per farvi anche capire la caratura del soggetto John Martin, che si era a poco più che agli esordi. E in questo album forse John Martin inizia a staccarsi dal modello dylaniano per abbracciare più quello che magari stava iniziando a segnare un altro grande del folk, ovvero Donovan, che aveva introdotto i ritmi jazzati all'interno del folk l'anno prima della pubblicazione dell'album di John Martin, nei suoi due album del 67, Mellow Yellow e A Gift from a Flower to a Garden. In questo album non è, come già detto, non è più da solo con la sua chitarra a registrare John Martin, ma si farà aiutare appunto dal già citato Harold McNair al flauto, da David Moses al contrabbasso e da Paul Wheeler alla chitarra. E adesso andiamoci a sentire un paio di canzoni di questa The Tumbler, che, essendo abbastanza corte come canzoni, tutte entro i 3 minuti, secondo me ne vale la pena di sentirne un paio, giusto per sentire l'evoluzione che ha avuto in questo album. E adesso sentiamoci Sing a Song of Summer, giustamente, visto il clima attuale mi sembrava perfetto, e poi subito dopo ci andremo a sentire Seven Black Roses, John Martin, Radio Wombat, Tonight Alive. If you go looking down in the summer to the village, the bottom of the well, you find nice things and butterflies' wings and policemen's hats as well. The girlies there won't hurt you, 'cause they're all so very nice. There's cats and dogs and bats and frogs and little pink sugar mice. Come along and sing a summer coming on. Come along and sing a summer, summer's a coming on. Summer's a coming on, and won't you wear your silly trousers and your funny feathered hat? And come on running down the road, follow the Cheshire Cat. Your friends, they will all be there and they'll all be taking tea. So come on laughing down the road, come on follow me. Come along and sing a summer coming on. Come along, sing a summer, summer's a coming on, summer's a coming on. Won't you leave behind your city shoes and lose your bowler hat? Forget about your winter woes and wipe your eyes on the mat. Won't you leave your green wallpaper and the clock up on the wall? And lock your doors up one by one, come running down the hall. Come along and sing a summer coming on. Come along and sing a summer, summer's a coming on, summer's a coming on. And if you go looking down in the summer to the village at the bottom of the well, you find nice things and butterflies' wings and policemen's hats as well. Ladies there won't touch you, 'cause they're all so very nice. There's cats and dogs and bats and frogs and little pink sugar mice. So come along and sing a summer coming on. Come along and sing a summer, summer's a coming on. Summer's a coming on. Summer is a coming on. Sight, shining like black stars in the night, and around them drops a diamond water flowed, far between them on his horse, Muffer and the devil rode. Thank you. questa era Seven Black Roses di John Martin, falsissimo, che duravano tutte e due meno di 3 minuti, però almeno mi sono potuto andare a prendere qualcosa da bere per lubrificare l'ugola in questa torrida serata. E nel 1969 John Martin sposerà Beverly Kuntner, una cantante di Coventry. E già in quel inizio di 1970 John Martin svilupperà un suono tutto suo, completamente originale, con la chitarra acustica, appunto con questa chitarra acustica che ci aveva attaccato insieme diversi effetti per chitarra elettrica come il fuzzbox, il phase shifter e l'ecoplex, e appunto usando questa effettistica riuscì a tirare fuori questo suono dalla chitarra acustica, che lo rese sicuramente quantomeno originale e molto poco sentito via fino a quel tempo. Era un suono sicuramente nuovo e che faceva solamente lui. E in quel 1970 pubblicherà il suo album successivo Stormbringer, scritto in collaborazione con la neo sposa Beverly, e verrà pubblicato nel febbraio del 1970, ma fu registrato nell'estate del 1969 a Woodstock, vicino New York. Quindi vi potete già immaginare tutti gli annessi e connessi. Sì, è stato registrato in quella famosa estate dell'amore, bla bla bla e bla bla bla. Quello ve lo evito, ve l'ho già parlato tante volte, ve lo potete immaginare. E in questo album suonano insieme a John Martin e a sua moglie anche Livon Helm della band, il tastierista Paul Harrison, John Simon e anche il batterista Billy Mundy delle Mothers of Invention di Frank Zappa, una backing band di tutto rispetto. E John Martin scrisse 6 delle 10 canzoni e sua moglie Beverly le restanti 4. E il produttore di questo album, di questo Stormbringer, è stato Paul Harris, tra l'altro ha anche suonato nel disco. E la maggior parte dei brani sono ballate come Get Out and Get It, Stormbringer, Woodstock, John the Baptist. E ci sono anche i primi brani in cui Martin sperimenta la sua particolare tecnica con tutti quegli effetti alla chitarra acustica, e questi primi esperimenti sono Would You Believe in Me e The Ocean. Ma adesso, appunto, da questo Stormbringer del 1970 andiamoci a sentire Get Out and Get It, John Martin, Tonight Alive. If he sees the road leads straight Questo appunto era Get Out and Get It da Stormbringer. E l'album successivo, sempre su Island Records, del novembre del 1970 è The Road to Ruin, che aprì una nuova fase sicuramente artistica per John Martin, in quanto annoverava al contrabbasso Danny Thompson, che poi si rivelerà un collaboratore di lunghissima data per John Martin, Danny Thompson dei Pentangle e non solo, perché Danny Thompson l'abbiamo già incontrato in precedenti puntate, è una figura cardine di tutto il giro folk jazz inglese, ma non solo, direi proprio di tutto il giro folk jazz in generale mondiale di quel periodo. E bastano solo altri due nomi di band oltre ai Pentangle e John Martin per capire il calibro di Danny Thompson, che suonò anche insieme a Nick Drake, collaborò appunto ai suoi album, e anche sono insieme agli Alexis Corner Blues Band fondamentale del blues revival inglese degli inizi degli anni 60. Senza poi dimenticare che ha messo molte volte il suo contrabbasso al servizio del leggendario Tim Buckley, come appunto nel suo favoloso concerto, quello, il famoso Dream Letter Live from London. Lì c'era Danny Thompson al contrabbasso ad accompagnarlo. Però vabbè, a parte questa parentesi su Danny Thompson, ritornando a In the Road to Ruin, gli esperimenti alla chitarra sono pervasivi, cioè sono centrali nella dinamica dell'album. Pezzi come Parcels, Auntie the Aviator, Tree Garden, Primrose Hill usavano la strumentazione del jazz nel formato della canzone rock, come aveva già fatto Van Morrison qualche mese prima nel suo capolavoro Post Them, ovvero su Astral Weeks. The Road to Ruin fu anche il secondo e ultimo album che John Martin farà pubblicare come in duo, perché la Island Records convinse John Martin a recuperare la sua carriera solista, perché pensava che il pubblico fosse molto più interessato a John come artista solista e non come parte del duo. E in questo caso devo dire che una delle poche volte che ringrazio un'etichetta discografica, non me ne voglia la buona Beverly, però non è che mi piacciono un granché questi due album in collaborazione appunto con la moglie. Però adesso andiamoci a sentire da questo Road to Ruin, andiamoci a sentire un pezzo, Auntie Aviator insieme a sua moglie Beverly Martin, insieme ovviamente a John Martin. Tonight Alive. scusate, vi ho fatto ripartire quella di prima, Get Out and Get It, va bene che era bella, però sentiamoci a un tee di Aviator insieme a sua moglie. questa era Auntie Aviator, sennò povera Beverly, non, anche l'unica canzone che avevo selezionato con la sua voce da solista avevo fatto ripartire un'altra volta Get Out and Get It, e alla fine comunque anche questa Auntie Aviator è molto bella, secondo me ne valeva la pena di essere riascoltata anche solo per sentire la voce di Beverly Martin. E John Martin invece continuò a curare sempre di più le caratteristiche anomale del suo canto e la tecnica aspra della sua chitarra, e anche ad impreziosire certi suoi arrangiamenti in stile jazz. L'album successivo del novembre del 1971, Bless the Weather, John nella sua biografia ci racconta che sentivo veramente innocente, stavo veramente bene e è stato veramente un piacere farlo, questo album. La maggior parte delle canzoni di Bless the Weather sono state molto veloci, le ho scritte e le ho registrate subito in studio il giorno che l'ho scritte, e mi sono piaciute molto di più così, molto molto spontanee, senza editing, senza post-produzioni e riregistrazioni, sono molto così, molto, molto naturali, e ho preferito molto di più questo approccio per questo tipo di album. E effettivamente le recensioni di questo nuovo lavoro di John Martin furono subito abbastanza positive, sia nella critica che nella risposta dei fans. In questo album troveranno posto futuri standard della discografia di Martin come Head and Heart oppure Bless the Weather, la title track. Però l'album è prevalentemente acustico e si trova forse il brano quello più lungo, maggiormente sperimentale, è la vera prima traccia completamente con l'Ecoplex di John Martin e Glistening Glinderburn, e si può dire che rappresenta proprio la summa sperimentale del John Martin di questo primo suo periodo di carriera. E appunto ascoltiamoci questa Glistening Glinderburn di John Martin, con la chitarra effettata con l'Ecoplex. Tonight Alive, Radio Wombat. Thank you. E questa appunto era la sperimentale Glistening Glyndebourne, tutta suonata con l'Ecoplex alla chitarra, molto bella, molto, molto, molto liquida. E appunto arriviamo al prossimo album di John Martin, che è Solid Air, del febbraio del 1973. Fu sicuramente il suo disco più blues, in quanto imitava le tecniche dei bluesman classici, ma soprattutto ne faceva il naturale erede del grande Tim Buckley. E l'album fu registrato in solo 8 giorni, in poco più di una settimana, con il contributo strumentale del fidatissimo ormai contrabbassista Danny Thompson, e pensate un po', come backing band insieme a Danny Thompson c'erano niente po' di meno che i Fairport Convention, altro gruppo da niente dell'ambito jazz folk progressive inglese. Pensate, a dare appunto una mano a John Martin arrivarono proprio tutti comunque la maggior parte dei Fairport Convention. Infatti nei Fairport Convention alla chitarra suonava il fratello di Danny Thompson, Richards, oltre a Dave Pegg, Dave Mattax e a Simon Nicol. Questo, sono molto legato a questo Solid Air perché è il primo album che ho conosciuto di John Martin. Non ne avevo mai sentito niente, ne avevo un po' letto, sentito parlare e roba così, sapevo appunto delle sue connessioni con l'amicizia di Nick Drake, con appunto le sue conoscenze in un certo ambito musicale. Però insomma non mi era mai capitato di imbattermi in niente di suo, e una sera, girellando per un mercatino, una di queste sagrettine dove c'è i classici banchini dei vinili e dei CD, mettendomi a scartabellare, trovai appunto Solid Air di John Martin, con la sua affascinante copertina verdognola, con questa mano che passa sopra a questa trama che sembra appunto dell'acqua ripresa da sotto. E visto il modico prezzo, dissi: vabbè, perché no, portiamocela a casa. E da lì mi si aprì un mondo, anche perché insomma l'ambito, quello di John Martin, non era sicuramente uno dei generi musicali che mi stavo ascoltando nel periodo, e mi ricordo ne rimasi veramente folgorato una decina di anni fa, e sono completamente, cioè mi piace tantissimo. Solid Air è forse il mio album preferito di John Martin, e adesso appunto, presa appunto da Solid Air, andiamoci ad ascoltare una delle mie canzoni preferite di John Martin, ovvero Over the Hill. John Martin, Tonight Alive, Radio Wombat. I'm going away to leave you, I'm gonna leave you in disgrace. Nothing in my favor, got the wind in my face, I'm going home. Going back somewhere I've gone wrong, going rolling back home again over there. ovviamente ogni riferimento a persone, luoghi o fatti realmente accaduti non è per niente assolutamente casuale, però bellissimo in questa Over the Hill questo mandolino che accompagna la chitarra di Nick Drake. Solid Air, la title track di questo album, era stata scritta, composta e dedicata per un amico di John Martin, Nick Drake, che da lì a poco tempo dopo l'uscita dell'album, come abbiamo già scoperto nella puntata a lui dedicata, un annetto dopo la pubblicazione dell'album morirà, sappiamo come. E John Martin dirà della traccia: questa era la traccia fatta per il mio amico, fatta bene, fatta per uno scopo preciso e fatta per dei chiari motivi. È stata composta e sono veramente orgoglioso di questa canzone e orgoglioso e grato a questa canzone per vari motivi. Contiene un semplicissimo messaggio. Tu devi lavorare duro per far uscire fuori il tuo vero te stesso. Ora, come traduzione istantanea dall'inglese, magari non avrà reso un granché, ma spero abbiate capito il senso di quello che voleva dire John Martin. E l'album contiene anche una cover che possiamo quasi definire di avanguardia, di una canzone, di uno standard di Skip James, di Devil Got My Woman, che è stata poi tra l'altro anche rinominata da Skip James stesso, I'd Rather Be The Devil, e questa è proprio la versione I'd Rather Be The Devil, è proprio quella usata e trasformata con la pesante influenza dell'Ecoplex sulla sua chitarra in questo album. Altri capolavori contenuti in quest'album, cioè ve l'ho detto prima, sono talmente affezionato a quest'album che andrebbe fatto sentire per intero, secondo me non è neanche più di tanto lungo, perché ogni canzone secondo me vale la pena di essere ascoltata ed apprezzata. Canzoni come Don't Want You Know, Go Down Easy, Dream by the Sea, la già citata più volte nonché sigla di stasera, The Easy Blues Medley, e soprattutto altri due dei suoi capolavori come May You Never e The Man in the Station. E il canto era perfettamente integrato nel sound del gruppo, come se la voce fosse semplicemente uno strumento a fiato, proprio come prosecuzione degli insegnamenti di Tim Buckley. E adesso andiamoci a sentire la sua stupenda May You Never, John Martin. And may you never lay your head down without a hand to hold. May I never make you mad out in the cold. Just like a greeting from brother of mine, you know that I love you true. You never talk and touch it behind my back, and I know that it's those that do. Please, won't you, please, won't you be reading mine? Love is a lesson to learn in our time. Please, won't you, please, won't you be reading mine for me? May you never lay your head down know that some do. Please, won't you, please, won't you bear it in mind? Love is a lesson to learn in our time. And please, won't you bear it in mind? May I never lay your head down without a hand to hold. Questa appunto era May You Never, e continuando in quell'esaltante progressione nel parallelo con Tim Buckley, con l'album successivo Martin si può dire che raggiunse il suo personale Star Sailor. Infatti l'album Inside Out dell'ottobre del 1973, in quel 1973 appunto pubblicò questi due album fantastici, entrambi su Island Records, e questo Inside Out è sicuramente l'album più sperimentale e libero di tutta, probabilmente di tutta la discografia di John Martin, e il suo apice artistico insieme a Solid Air, almeno secondo me. Per questo album, oltre al fidatissimo Danny Thompson al contrabbasso, vengono reclutati anche il grande Steve Winwood e Chris Wood, rispettivamente alle tastiere e al flauto, direttamente dai Traffic, e altri due percussionisti sempre del giro dei Traffic, oltre a Bobby Case al sax. E di questo album John Martin nella sua biografia dice che mi sentivo veramente naturale all'inizio di Fine Lines, che è la prima canzone di Inside Out. Inside Out fu registrato in pochissimi giorni, e solamente nelle primissime ore del mattino, soddisfacendo il bisogno di John Martin alla spontaneità. Questa stravaganza con l'Ecoplex fece venire fuori un album molto, molto sperimentale, una celebrazione dell'amore, diciamo, secondo John Martin, che appunto descrisse questo album come "Everything I ever wanted to do in music, it's my inside coming out". tutto quello che volevo fare con la musica, il mio interno, il mio vero io che se ne stava uscendo fuori. Accanto ad altri due classici della canzone libera come Make No Mistake e appunto la già citata Fine Lines, canzoni che sposano un'intensa passione e uno spiritualismo quasi zen come Ways to Cry e So Much in Love with You. L'album contiene anche l'assoluta forma freeform, una jam freeform come Outside In, in cui si sublima tutto il folk jazz di John Martin, la sua chitarra, il basso di Danny Thompson e l'accompagnamento di Steve Winwood e Chris Wood dei Traffic formano un ensemble incredibilmente armonioso, anche se sicuramente fieramente sperimentale, come potremmo andare a sentire. E di questo album vale assolutamente la doppietta, direi, e vi farei sentire prima Make No Mistake nella sua sempre forma canzone ma assolutamente libera, e poi la super sperimentale Outside In, doppietta per Tonight Alive con John Martin, Make No Mistake, Outside In, Radio Wombat. No! E adesso subito a ruota, ascoltiamoci i quasi 8 minuti e mezzo di puro sperimentalismo folk jazz psichedelico di John Martin con Outside In, Radio Wombat. Thank you. is dead, the gambling on is dead, gambling on is dead, the gambling on is dead. It must be, questa appunto era la lunga Outside Ending, John Martin, su appunto sul suo album Inside Out del 1973, e l'album successivo dell'inizio del 1975, sempre su Island Records, è Sunday's Child, che segnò il ritorno al formato della canzone folk rock e mostra sicuramente le tante sfaccettature del modo di suonare di John Martin, dalla sua chitarra pesantemente effettata fino ai suoi lavori più acustici. E l'album contiene quasi tutte canzoni originali scritte da John Martin, tranne un paio di cover, che sono una è il traditional, una ballata inglese che si chiama Spencer the Rover, e l'altra è un altro standard del country, però stavolta Satisfied Mind. E una curiosità è che nella canzone The Message, contenuta appunto in Sunday's Child, appunto in The Message una parte del testo scritto dalla penna di John Martin e cantato nel suo tipico stile, però l'altra metà della canzone è derivata da un'altra ballata folk scozzese tradizionale che si chiama Mary Wedding, eccetto per Call Me Crazy, che è quasi 7 minuti e mezzo, i brani sono relativamente brevi. Questo disco però ha forse la qualità media più elevata di tutti i suoi precedenti lavori, e anche direi dei successivi decisamente. Quasi ogni canzone si può definire un classico, come One Day Without You, Root Love, My Baby Girl, Sunday's Child, You Can Discover. La scrittura e la produzione sono limpide ed impeccabili, ed impeccabile l'alto livello dei session man al fianco del contrabbasso di Danny Thompson garantiscono un accompagnamento ed un suono sempre pieno di sfumature. E adesso andiamoci a sentire un'altra doppietta per questo Sunday's Child, con appunto l'omonima canzone dell'album e You Can Discover, John Martin, Tonight Alive, Radio Wombat, la prima è You Can Discover. comes flowing with the rain. And on the very next day I sorrow Jesus crying again. But darling, you can discover the lover in me. I can discover the lover in me. Together we can roll and tumble till the cow comes home. Sometimes our story's just too beautiful to tell. Black bells on a Sunday, blues on a Monday, goes together well. But darling, you can discover the lover in me. You can discover the lover in me. Together we can walk in the road until the cow comes home. Sometimes some kind of sadness shows upon your face. Sometimes some kind of madness tries to take my place. But darling, you can discover the lover in me. And I can discover the lover in me. Together we can rock and roll until the cow comes home. One day our laughter comes flowing with the rain. And on the very next day our laughter ceases crying again. But darling, you can discover the lover in me. I can discover the lover in me. You can discover the lover in me. Discover the lover in me. Together we can rock and roll until the cow comes home. Da do da da do da. Da do da da do da. Da do da da do da. Da do da da da da do. Per la promozione di questo Sunday's Child, John Martin intraprese una lunghissima tournée appunto per promuovere questo Sunday's Child insieme a Danny Thompson e a John Stevens alla batteria. Arrivò anche Paul Kossoff a dargli man forte durante questo lunghissimo tour, e al concerto alla Leeds University del 13 febbraio del 1975 fu registrato nell'ottica di poi farne uscire un album live, idea che poi la Island Records scartò. Ma John Martin piacque così talmente tanto la registrazione di questo concerto che decise di autoprodurselo e di distribuirlo tutto per conto suo, e infatti questo concerto è il famoso Live at Leeds di John Martin. E appunto pensate che se l'è completamente autoprodotto, disegnato e tutto quello che ci può essere dietro a un artwork, in un'edizione limitata a sole 10.000 copie e che veniva venduta esclusivamente attraverso ordini postali direttamente dalla sua casa di Hastings. E come vi potrete immaginare, essendo solamente 10.000 copie e tutte completamente fatte da John Martin in persona, cioè non ogni singola copia, però un album completamente autoprodotto, vi potete immaginare adesso chi possiede una di queste 10.000 copie, che tesoro si trova tra le mani. E comunque la storia, la leggenda vuole che John Martin non gli fosse rimasta neanche una copia di quest'album, perché appunto se l'era vendute tutte via posta, finché nel 1998 non è stata fatta la rimasterizzazione in CD di questo bootleg, con l'aggiunta anche di 5 bonus track dove compariva anche Kossoff, che nella registrazione originale era assente. E arriva il novembre del 1977 ed esce l'album One World, con delle fortissime influenze reggae e anche di forma libera di canto, anche sempre con i suoi arrangiamenti jazzati. È stato acclamato per il suo spirito collaborativo. Infatti l'album contiene anche il contributo di un'altra autentica leggenda della musica giamaicana come Lee Scratch Perry in Big Muff, E in questo album c'è anche la collaborazione di Steve Winwood alle tastiere. E l'album venne ricevuto, ricevuto abbastanza bene, con delle critiche abbastanza positive. E va fatto notare che quest'album ha la particolarità di essere registrato all'esterno e non in studio, e con tutti i rumori di sottofondo della natura, come in particolare in Small Hours, il brano più lungo di 7 minuti e mezzo, che appunto era stato registrato a notte fonda nella campagna inglese, e appunto si possono sentire nella registrazione tutti i rumori della campagna, compreso il rumore dell'acqua proveniente da un lago lì vicino, ed anche, ovviamente, essendo in aperta campagna, il reverbero naturale dell'ambiente. John Martin poi riregistrerà nuovamente la ballata acustica Couldn't Love You More con un arrangiamento più rock nel suo album del 1981, Glorious Fool. Comunque la canzone, questa Couldn't Love You More, nelle sue varie forme che assumerà poi nell'evoluzione degli anni, rimarrà sempre un grande classico delle performance live di John Martin. E nel gennaio del 1978 uscì il primo singolo estratto appunto da questo One Word, che sarà Dancing Dealer, e che raggiungerà la 54esima posizione della classifica inglese e non andrà molto più in alto. E adesso appunto da questo One Word andiamoci a sentire, direi quasi obbligatoriamente, la collaborazione di John Martin insieme agli Scratch Perry con la loro Big Muff. Tonight Alive, Radio Wombat. Thank you. Every time I see his name, I sing in that same old song. I get away when you're bound up. Lord, you're trying to kill me. Big mama, get away from them terrible stuff. But Lord, you're killing me. This thing is dangerous until you're serious. You need to be angry. It's bigger than both of us. Big mama, I see I had been born. Oh, no, they're trying to kill me. Well, the man downstairs moved away from me, like the man upstairs always knew it was. The man downstairs moved another way, and the girl upstairs every night can you say, Big Mama, get away with your powder puff. God knows you can. Big Mama, can't you see I had enough? God knows you're stifling me. It's like an allergy with no apology. It's up my energy. Questa appunto era la giamaicaneggiante Big Muff di John Martin in collaborazione con Lee Scratch Perry. E in questo finale, in questa fine di 1900, degli anni 70, arriverà anche il divorzio di John Martin dalla moglie Beverly, e come scriveranno poi dopo i suoi biografi, John schiaccerà il pulsante dell'autodistruzione, che infatti già era alcolizzato e tossicodipendente dopo appunto il divorzio drammatico, direi, dalla moglie Beverly. Vi potete immaginare in che condizioni si è ridotto dopo. E questo periodo, vi potete immaginare, viene descritto come il periodo più scuro di tutta la mia intera vita da John Martin, ma quello era abbastanza prevedibile. E da questo shock Martin gettò la chitarra acustica per prendere quella elettrica e reclutò l'amico e batterista Phil Collins, che insieme produssero e suonarono l'album Grace and Danger dell'ottobre del 1980. L'album suonato, prodotto e pubblicato da Chris Blackwell, e tra l'altro Blackwell, essendo intimo amico di famiglia di entrambi, sia di John che di Beverly, anche lui descriverà quest'album come una delle sue uscite più disturbanti e più difficoltose da pubblicare, ecco. E John Martin e Phil Collins fecero nascere una fortissima amicizia durante la registrazione e la scrittura di questo album, perché entrambi venivano da questa situazione di divorzi dolorosissimi. E Phil Collins suonava sia la batteria, che faceva da corista a John Martin, e effettivamente questo fortissimo legame tra Grace and Danger di John Martin e l'album contemporaneo di Phil Collins, Face Value, risulta, dall'ascolto di questi due album, risultano veramente due album, due LP gemelli a livello emotivo praticamente. Infatti descrivono entrambi con testi veramente crudi il dramma della distruzione di una relazione. E così Grace and Danger fu il suo album forse meno sincero dal punto di vista musicale, ma nel momento in cui era più sincero, direi dolorosamente sincero dal punto di vista dei testi. Martin si dannò deviando verso il pop da classifica, in particolare con Sweet Little Mystery, destinata a rimanere comunque una sua hit, ma si fece perdonare con una serie di numeri di alta classe come Some People Are Crazy, Grace and Danger, Looking On, Johnny Too Bad, Heart in Your Heart. E l'album successivo, Glorious Fool, del settembre del 1981, è sempre con insieme a Phil Collins, con in più l'aggiunta anche di un altro dinosauro al tempo della musica inglese, ovvero Slow Hand Eric Clapton alla chitarra. Glorious Fool, diciamo, lo lascerei perdere. Grace and Danger, come vi ho già detto, contiene dei brani di alta classe, però vi potete immaginare l'atmosfera dell'album com'è. Via per questo sabato sera, se vi interesserà, andatevelo a sentire, Grace and Danger, però non mi sembra il caso di mettere queste atmosfere da taglio delle vene in senso verticale in questa puntata. Magari ve lo riscoprirete voi in un secondo tempo, se siete interessati ad approfondire la discografia di John Martin. E appunto, dopo Glorious Fool uscirà un altro album nell'agosto, questa volta nell'agosto dell'82, Well Kept Secret, anche questo direi abbastanza da fare scorrere così. Non faccio sentire niente, non sono, diciamo che c'è grossa crisi, come avrebbe detto Corrado Guzzanti. Nel 1984 esce Sapphire, che è un album rock di John Martin, e è l'album che segna il definitivo abbandono alla chitarra acustica e a un qualsiasi tipo di sperimentalismo a favore di un classicissimo e direi quasi forse grossolano pop rock. E Robert Palmer l'aiutò appunto a registrare questo, che probabilmente è forse uno dei suoi album peggiori, dove magari ci sono due o tre canzoni che si possono salvare forse per l'arrangiamento con cui sono state registrate. Però l'album della rinascita della carriera artistica di John Martin è forse Piece by Piece, sempre su Island Records, del 1986, è sicuramente molto meglio del precedente Sapphire, ma principalmente forse per via dell'entusiasmante show vocale di John Wayne di 7 minuti, e perché no anche per via di un altro, magari altre due o tre canzoni come Lonely Love, Nightline e Serendipity. E per questo album, oltre a John Martins ovviamente alla chitarra, ci sono Foster Patterson alle tastiere, Alan Thompson al basso, Danny Cummings alle percussioni e Colin Tully al sassofono. E adesso volevo farvi appunto sentire questa John Wayne in versione live, in questa versione live registrata a uno show di una TV tedesca nel 1986, e come forse potrete intuire dal testo, John Wayne non è il John Wayne, famoso attore western che uno subito viene in mente, ma John Wayne non è nient'altro che la parodia e la presa per il culo di Ronald Reagan e della politica di Ronald Reagan al tempo, in quella metà degli anni 80, e quindi andiamo ad ascoltarci questa John Wayne di John Martin del 1986, sempre su Tonight Alive Radio Wombat. Thank you. E questa appunto era la John Wayne live alla televisione tedesca di John Martin, ed arriviamo nel 1990 con The Apprentice, che originariamente fu registrato nel 1988 e rimandato per i soliti problemi di salute. Dispiega un'armata di sintetizzatori e samplers, e Martin si è modernizzato, ma anche nei panni del dandy elettronico riesce ancora a colpire nel segno con The River e l'omonima traccia dell'album, ovvero The Apprentice. Poi l'album successivo del 1991, già dal precedente The Apprentice, dalla Island era passato alla Permanent, visto insomma il suo la Island lo, diciamo, non lo scaricò, però insomma non gli rinnovò la collaborazione, e si era accasato alla Permanent Records. E appunto in quel 1991 uscì Cool Tide, che un po' segna il ritorno allo stile che più gli era congeniale, con canzoni ad esempio come Hole in the Rain, Jack the Lad, Number 9. Il tour de force del disco è sicuramente l'omonima Cool Tide di 12 minuti, e che è sicuramente uno dei momenti più degni e il momento migliore forse della sua seconda fase di carriera. Però varrebbe sicuramente la pena di farvelo sentire, però se vi faccio sentire anche questi 12 minuti, poi arriviamo direttamente all'alba con il Tonight Alive di stasera, stanotte, e quindi ve lo lascio a una vostra futura indagine. Ma se vi piace John Martin, ascoltatelo sicuramente. Dopo un altro stop, sempre dovuto a problemi di salute di diversi anni. Infatti, dopo uno stop di quasi 5 anni, su Go Disc nel 1996 uscirà l'album End, che è davvero un album minore nella discografia di John Martin, dove magari varrebbe la pena di recuperare forse la sola Sunshine Better. Nel 1998 esce questo album, The Church with One Bell, su la famosa, abbastanza rinomata Thirsty Ear Records, che è fondamentalmente un album di cover, e che quindi vi potete immaginare magari non aggiungerà niente sotto lo stretto profilo artistico. È un album, sì, è un album dove John Martin coverizza delle sue canzoni che, insomma, che gli piacciono, quindi dà anche indicazioni un attimo sui suoi gusti musicali. Ah, comunque una cosa che volevo farvi, che avrete sicuramente notato dall'ultima canzone, da John Wayne, in questa seconda parte di carriera la sua voce, l'avrete notato, è completamente cambiata rispetto alla prima metà. Cambio del timbro, dell'estensione, di tutto, dovuto appunto ai profondi abusi di quegli anni. Però appunto, ritornando a questo, a Church with the Bell del 1998, appunto è un album di cover, quindi niente di nuovo, però è una bella fotografia di questo finale di carriera del nostro uomo di questa serata. E appunto, come già detto prima, soprattutto per le cover da lui scelte, che dimostrano i suoi gusti musicali. Giusto per dirvene qualcuno, per darvi un po' di indicazioni: He's Got the Whiskey di Bobby Charles, God's Song, That Why I Love Mankind di Randy Newman, How Fortunate the Man with None dei Dead Can Dance, Small Town Talk di Bobby Charles, Excuse Me Mister di Ben Harper, Strange Fruit nella versione non quella rifatta da Billie Holiday, ma proprio nella versione originale di Abel Mirapol, The Sky is Crying, classico, grandissimo classico del blues di Elmore James, Feel So Bad di Lightning Hopkins, That Don't Have No Mercy del reverendo Gary Davis, che la ricordiamo nella versione psichedelica per eccellenza di Live Dead, dei Grateful Dead, Dead Have No Mercy. Incredibile, ma incredibile anche la versione originale del grandissimo reverendo Gary Davis. E appunto, per questo album, anche se minore, però rappresentando secondo me appunto questa fase finale di carriera di John Martin, vale la pena di farvi sentire, ho selezionato per voi Glory Box dei Portishead, grandissimo classico di tutta la scena di Bristol, di tutto il trip hop, uno dei brani centrali del leggendario Dummy dei Portishead, mi sembra uscito nel 95, quindi 3 anni prima di questo Church with One Bell. E appunto di questo classico del trip hop andiamoci a sentire la versione personalissima che ha dato John Martin appunto di questo grande classico del trip hop, Glory Box dei Portishead. John Martin, Tonight Alive, Radio Wombat. Thank you. so tired of playing with his bow and his arrow. I'm gonna give my heart away and leave it to the other boys out there to play. Been tempted too long, gone. Give me a reason to love you. Give me a reason to wanna be a man. Give me a reason to love you. Give me a reason if you can. This time unchanged, we're all looking at a different picture to a different frame of mind. A thousand flowers may bloom, could it be time to move over, give me some room. Give me a reason to love you. Give me a reason to wanna be your man. Give me a reason to love you. Please warn me if you can. Thank you. questa appunto era la cover dei Portishead, Glory Box. E appunto John Martin abusò di droghe e alcol lungo tutto l'arco della sua vita. E il fatto che praticamente, vabbè, lasciamo perdere questa cosa qua. Insomma, era un'introduzione per dirvi che fondamentalmente nel 2009, a causa di tutti gli abusi di John Martin, lasciava questa valle di lacrime, appunto, il 29 gennaio del 2009 nell'ospedale della contea di Kilkenny in Irlanda. John è sicuramente stato uno dei pochi cantanti che potesse competere con Tim Buckley in fatto di creatività vocale, e uno dei più vicini alle tecniche del jazz, diciamo, nella musica rock, o diciamo popolare. I suoi capolavori, i suoi album della prima metà degli anni 70, sono dischi complessi e difficili che sfondano i confini tra folk, blues, soul e del jazz. È rimasto sconosciuto ai più, ignorato da quasi tutte le enciclopedie pubblicate nei primi 20 anni della sua attività, finché non si convertì fondamentalmente alla musica pop. Ma come avrete, anzi non vi ho fatti neanche sentire, perché non posso nemmeno pensare che fossero stati fatti da John Martin quegli album, sì, quindi non vi ho neanche fatto sentire una canzone di quel periodo post divorzio, dove praticamente ribaltò, secondo me. E insomma, John Martin è stato questo, è stato un artista che ha avuto un'evoluzione all'interno di 40 anni di carriera di carriera artistica, partendo dal folk più tradizionale, prendendo come riferimento Bob Dylan, a poi arrivare appunto agli apici sperimentali di Inside Out o alle canzoni profonde, estremamente profonde e sofferte, quelle subito post divorzio di Grace and Danger, e anche dell'album precedente Sunday's Child. Sicuramente si possono considerare questi i suoi capolavori. E a questo punto, visto che stiamo andando avanti direi da 2 ore e mezzo e prima o poi arriverà qualcuno che mi abbatterà, spero, perché se no ci facciamo tutta la notte insieme, e vabbè, chiudo lasciandovi al concerto che ho selezionato per voi di John Martin. Pensate, ho scelto per voi Live at Leeds, famosissimo, e invece no, era troppo scontato, e ho trovato invece una registrazione di un concerto in Italia, dove tra l'altro passò anche a Milano in quel 1979, ma questa è la registrazione del concerto che John Martin fece in solo, quindi solo lui e la chitarra, cosa appunto un ritorno alle origini della sua carriera, e è registrato al Teatro Antoniano di Bologna il 18 maggio del 1979. Grandissime canzoni: One Day Without You, Certain Surprise, Couldn't Love You More, Big Muff, Seven Black Roses, Jelly Roll Baker, Over the Hill, One World Outside In, Spencer the Rover, May You Never, Sing in the Rain, I'd Rather It Be the Devil. Sono un concerto con una tracklist veramente tanta roba, e poi appunto secondo me era molto interessante andare a risentire appunto questo ritorno al solo chitarra e voce di John Martin, e rende anche abbastanza l'idea del personaggio John Martin questo concerto, perché appunto essendo solo lui, chitarra e voce davanti al pubblico, sentirete che il buon John giustamente tenterà di avere un'interazione con il pubblico davanti a lui, però lui parlando solo inglese, tra l'altro inglese abbastanza con questa inflessione abbastanza pesante del nord, e in un auditorium in Italia nel 1979, vi immaginate, lui gli parlava e era come se gli stesse parlando in babilonese, nessuno capiva niente. E per farvi capire un attimo il soggetto, che era John Martin, e probabilmente in che condizioni era in questo concerto, a un certo punto, dopo che lui dice una battuta per rompere un po' il ghiaccio col pubblico e nessuno capisce niente, in tutta risposta, in pieno microfono, John Martin risponde con un bel rutto soffiato nel microfono, e quindi insomma vi dà un attimo le coordinate anche del soggetto John Martin. E quindi non mi resta che lasciarvi a questo concerto, darvi appuntamento alla prossima puntata di Tonight Alive o di Basement Records. Ora non lo so se in quest'estate, visto che mi sto per sciogliere, ce la farò a farne delle altre, ma non vi preoccupate, qualcosa ci inventeremo. E ancora non verrete lasciati soli e sole nella calura e nella canicola estiva, ma qualche cosa forse ancora tirerò fuori dal cappello prima di salutarvi per la pausa estiva. E allora John Martin live al Teatro Antoniano di Bologna nel 1979 qui su Tonight Alive, e come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata qui sempre sulle frequenze di Radio Wombat. Ciao a tutti!